tot l'amici miei s'han negat orn. Casi partut e no, che me l'ha assata, so già tre giorni. Nessuno si n'ammo se immaginato che tu cresciuto in coppo cor mia. Merita Dio. Volando per città, nuova stramana, tu non puoi sapere che te ne viene, oggi rimane, e se non trovo mai chi ti può bene, quanto te ne vogli l'amico sanno, che fai volando? E torna rondinella, torna stunida, mo che primavera, io lascio porta aperta quando a sera, sperando di trovare vicino a me. Amici miei sanno che torna, tutti si sono fermati a tutti dico, d'indasti giorni, uno soltanto ero più buon amico, non l'ho vista e non c'è più venuto, fosse partuto, e torna rondine. Torna stunito mo che primavera, io lascio porta aperta quando a sera, sperando di trovare vicino a me. E torna rondinella, torna stunito mo che primavera, io lascio porta aperta quando a sera, sperando di trovare vicino a me.